attenta a non ferirti, mettiti i guanti, che certe spine tagliano anche i diamanti. Passami la borraccia, ma ora di te ho sete, lasciamoci alle spalle brutte storie finite. Non dimenticare di portare il tuo bel vestito, il nostro guanciale, che la notte è lunga da passare, ma tra le tue braccia sarà un fulmine, mio sole, tutto brilla, tutto, tutto il tuo amore, ora che il cielo ride, ride anche il sole, ballano le anguille in questo nostro eterno sogno. Tu che di uno stagno ne hai fatto un grande regno. Si fanno sbagli che non hanno senso, si aprono le porte che danno solo danno. A volte il cielo è scuro, talmente da oscurare il giorno, la notte, l'alba e tutta la luce del sole. Certa neve sembra oro, ma è sangue dietro l'angolo, ti aspetta come un falco e tu ti senti piccolo. Siamo di carne e spirito, a volte senza cuore, siamo talmente fragili quando ci manca l'amore. Tutto brilla, tutto, tutto il tuo amore, ora che il cielo ride, ride anche il sole, ballano le anguille in questo nostro eterno sogno. Che di uno stagno ne hai fatto un grande regno. Tutto brilla, tutto, tutto il tuo amore, ora che il cielo ride, ride anche il sole, ballano le anguille in questo nostro eterno sogno. Tu che di uno stagno ne hai fatto un grande regno. Tutto, tutto il tuo amore, ora che il cielo ride, ride anche il sole, ballano le anguille in questo nostro eterno sogno. Tu che di uno stagno ne hai fatto un grande regno.